Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro di estrema attualità. Si intitola Petrolio, la nuova geopolitica del potere. L'ha scritto Giancarlo Elia Valori. Buonasera, Presidente Valori. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Grazie mille. Giancarlo Elia Valori, docente universitario, grande esperto di relazioni internazionali, ha ricoperto importanti incarichi in società italiane e straniere. È un grande conoscitore della realtà internazionale, in particolare della Cina, su cui ha scritto anche dei libri. Ma partiamo dal titolo di questo libro, Petrolio, la nuova geopolitica del potere. Allora, Presidente Valori, perché è importante parlare di geopolitica parlando di petrolio? Geopolitica perché ormai sono entrati nuove aree in gioco, soprattutto nei nuovi consumatori globali. Allora, vede, non si fanno guerre per il petrolio o per l'oro o comunque per qualsiasi materia prima. La decisione di muovere guerra è un punto di coincidenza sempre di innumerevoli valutazioni. Ecco, spesso vede anche materialistiche di quanto non appaia nell'opinione pubblica. Certamente però la presenza questa di vasti depositi di idrocarburi, di altre materie prime in Turkmenistan, 30 nel mondo per la riserve petrolifere, in Kazakistan 30 miliardi di barili, in Azerbaijan che esporta quasi tutto il suo petrolio sul Baku Tbilisi-Iran, è stata una variabile nella lunga equazione che ha portato alla decisione di fare guerra ai Taliban, Al-Qaeda, oltre che alle numerose brigate nazionali che operano sul sentiero di Allah nel territorio afghano. Ecco, quindi anche l'ultima vicenda libica si muove in questa prospettiva. Ma certamente, ma qui è un punto importante, vede, certamente libica e ne stiamo vedendo le conseguenze. Vedete, l'Afghanistan è al centro del cuore del mondo, perché vede, io voglio insistere su questo, purtroppo assistiamo anche per qualche dolorosa notizia. L'India, vedete, lo legge come l'antemurale della sua sicurezza verso il nord. Per evitare che cosa? Per evitare minacce sul Kashmir e l'area del Bengala, cioè la settentrionale, la Cina, che confina con un tracciato anticamente contestato con Kabul, per esempio ricordando la via della seta. È un sistema di regionalizzazione che vede dalla Federazione Indiana e Mosca che cosa vuole? Vuole che l'Afghanistan non sia un protettorato americano, ma nemmeno un nido di viperi jihadiste nell'Asia centrale, e quindi ha diretto contatto con il caso. È bene ricordare qui che la Russia sappia bene che nel jihad afghano hanno un grande ruolo gli islamisti ceceni e infine gli americani che attraverso il controllo di Kabul vogliono mantenere un dente strategico in Asia vicino alla Cina e a Mosca. Ecco, e qui per non dimenticare il Pakistan che usa l'Afghanistan come area di sostegno per un eventuale attacco nucleare all'India e che quindi non rinuncerà mai a Kabul e che inoltre ha sostenuto all'inizio inventato i talebani, poi chiuso agli occhi. Vedete, ecco, qui è un punto importante, quindi, e questi sono i nuovi equilibri petroliferi. Ecco, sono nuovi equilibri che non si basano non solo sui giacimenti, sulla produzione, ma anche, lei spiega molto bene nel libro, sulle pipeline, sulle rotte del petrolio. Ma controllare... non c'è dubbio, questa non bisogna dimenticare, soprattutto questa è la strategia globale, tenendo presente che anche in questo nuovo mercato, che bisogna tenere presente, sia molto chiaro, la Cina che si muove, che gestisce il massimo di non ingerenza, che la Cina vuole semplicemente sfruttare al massimo questa fase di riposizionamento, come io lo chiamo, geoeconomico globale, anche per determinare che cosa? Per determinare una effettiva poliarchia nel sistema internazionale. Vedete, qui è importante perché Pechino intende gestire con estrema attenzione il suo estero vicino, come dicevo poco fa, in questo senso che la nuova portaerei, i nuovissimi aerei soprattutto da caccia, sono funzionali a questo schema, ma soprattutto intende far spegnere quelle che sono le vecchie superpotenze nei loro vecchi quadranti strategici, per esempio come il Medio Oriente, e qui siamo, consentitemi, bisogna capirlo bene, a una rielaborazione della teoria maoista, quella dei tre mondi, quello imperialista, americano e la vecchia URSS, cioè quello sviluppato ma bipolare con l'Unione Europea e certi paesi dell'Est. Ecco, ma il sistema sviluppato non è un po' azzoppato dalla crisi finanziaria che ha coinvolto gli Stati Uniti? Esattamente, giustamente lei mi fa una domanda molto chiara. Ecco, cioè, gli effetti di questa crisi finanziaria sugli altri mercati del petrolio e del gas, cosa comporta? Vedete, Washington qui è molto interessante esaminare, continua, a mio modo di vedere, tener basso il dollaro con politiche di interessi zero. Per esempio, gli americani prevedono un mercato del petrolio e del gas in tensione tra due dati: la crescita della domanda globale di idrocarburi, e purtroppo gli americani non fanno troppe differenze tra quelle che sono le diverse aree geopolitiche e l'aumento del prezzo medio dei prodotti petroliferi, e quindi anche, lo abbiamo visto, un rallentamento di tutte le economie in area di fondo monetario. Vedete, questo significa, che cosa significa questo? Che per i mercati americani la possibilità di una sequenza di future per il finanziamento di quelle che sono le necessità energetiche, e che saranno certamente denominati in dollari e che esporteranno un po' in quantitativa verso i paesi consumatori, quindi qui la stabilizzazione dei mercati periferici dei beni e dei capitali americani, cioè il permanere quello di un'economia del petrolio, che per esempio qui mi viene in mente dalla scelta che fece Kissinger di creare una linea preferenziale per i sauditi dopo la guerra del Kippur, ha reso la divisa americana soprattutto il massimo strumento per il riciclaggio dei petrodollari, e quindi Washington non è particolarmente interessata ad un prezzo basso di petrolio e gas. Vedete, qui la lotta sarà, come ha dimostrato l'Iran con la creazione della borsa petrolifera nel regno del Kish, cioè quella di proporre l'euro come alternativa alla transazione di rubli, ma che ciò significherà certamente una proiezione, ecco, geopolitica e militare che l'Unione Europea non ha la voglia, e credo anche, consentitemi, la capacità e la forza soprattutto di proporsi. Ecco, quindi l'Europa rischia un po' di essere schiacciata tra una debolezza, ma che però resta anche una forza degli Stati Uniti, e una crescente influenza cinese. Non c'è dubbio, voi pensate proprio sulla influenza cinese, l'analisi che ho voluto fare giustamente dimostra come in questo momento anche il ruolo che la Cina sta nei nostri mercati, soprattutto che riguarda verso l'Africa. Ecco, tra l'altro un elemento che Antonio Maccanico nella sua prefazione mette in luce è che a complicare le cose è venuta anche questa drammatica vicenda di Fukushima con il nucleare che ormai sta tramontando. Questo porterà il petrolio ad essere ancora protagonista, diciamo, non solo per decenni ma per secoli futuri. Ma certamente, questo certamente, come dice Maccanico, certamente, e qui, vedete, mi viene in mente soprattutto il ruolo, e non bisogna dimenticarlo, che in questo gioco ha l'Iran, che c'è soprattutto, non dimentichiamo che l'Iran ha una riserva provata di petrolio per 137,6 miliardi di barili, cioè il 10% delle riserve petrolifere mondiali, ed è il quarto esportatore al mondo, e qui non bisogna anche dimenticare che i suoi pozzi principali sono al confine iracheno. Ecco, vedete, qui è molto importante, perché qui poi si inserisce anche l'aspetto politico di questo paese. E allora bisogna seguirlo attentamente, perché Teheran è disposto certamente di spostare l'asse strategico del petrolio e del gas che l'Iran possiede, ma per il quale è il secondo solo alla Federazione Russa verso la Cina, come dicevo prima, l'India e l'Asia centrale. Ed è per questo che la polemica, e qui un punto importante, verso Israele e l'ebraismo è così forte e connessa con il progetto geopolitico iraniano. Cioè Teheran vuole secolarizzare il vecchio Medio Oriente, eliminando in qualche modo, depotenziando lo Stato ebraico, cioè evitare che Gerusalemme parta una serie di azioni occidentali che certamente oscurerebbero la proiezione di potenza iraniana verso l'Asia centrale e orientale, e conquistare quindi con l'Arabia Saudita altri paesi sunniti che sono deboli verso Israele, e qui la piazza araba egemonizzare simultaneamente sia il jihad della spada, che oggi colpisce ancora anche gli interessi iraniani, e i vecchi islamismi del jihad permanente che operano nell'asse tra i paesi arabi e dello Stato ebraico. Quindi è una realtà sicuramente complessa che va seguita con attenzione. Va seguita per questo, come diceva all'inizio, un fattore geopolitico, di un fattore molto importante che la società civile, la società presente, dobbiamo seguire con molto interesse, perché stanno cambiando gli equilibri internazionali. Ecco, di questi nuovi equilibri è quello che lei parla in questo libro. Ricordiamo il titolo, Petrolio, la nuova geopolitica del potere. Ringrazio Giancarlo Eliavalori di essere stato con noi questa sera, così come ringrazio Filippo Reggi in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo il libro Petrolio, la nuova geopolitica del potere, editore Excelsior, 1881, sono 248 pagine per €24,50. Grazie al professor Valori e presidente grazie Valori. Grazie mille e un cordialissimo saluto a tutti i radioascoltatori e soprattutto i desideri della trasmissione. Grazie mille presidente, alla prossima puntata e al prossimo libro. Buonasera a tutti voi, grazie.